scriverti una lettera che parli di me, che sia inconfondibile. E tu una busta da lettere, aprirla sai che effetto fa? Una di quelle sensazioni che si perdono alla nostra età. E quando ancora struccata scenderai le scale e timida la prenderai, vorrei guardare i tuoi occhi. Tanto lo so che un po' sorriderai e chissà quanto poi mi penserai. Vorrei inventare parole per scrivere la luce della luna quando ti illumina. Vorrei trovare una frase, una lettera, solo per ricordarti quanto sei unica. E dedicare il tuo sorriso alle stelle, poi fermare il tempo e ritrovarci soltanto noi. E voglio scriverti una lettera e parli di te, indimenticabile, nella buca delle lettere. Almeno oggi troverai qualcosa che ti fa sorridere, chissà se poi la leggerai. Quando sarai di corsa in mezzo al traffico, magari ti ricorderai che proprio dentro i tuoi occhi c'è ancora scritto cosa siamo noi e quanto è facile il senno di poi. Vorrei inventare parole per scrivere la luce della luna quando ti illumina. Vorrei trovare una frase, una lettera, solo per ricordarti quanto sei unica. E dedicare il tuo sorriso alle stelle, poi fermare il tempo e ritrovarci soltanto noi. Come l'ultima volta a svanire in un sogno, sai. Vorrei che non ti importasse degli altri e vorrei convincerti che l'amore è semplice. Vorrei che il sole fosse ancora più grande, perché forse non basta tutto per regalarlo a te. E dedicare il tuo sorriso alle nuvole che ci nascondono e restiamo soltanto noi. E voglio scriverti una lettera che parli di noi, una di quelle lettere che non ti scordi mai. Ed ho imparato dalla vita a non lasciare perdere. Sono i ricordi che ti assalgono, ora ti vengo a prendere, ora ti vengo a prendere. Vorrei inventare parole per scrivere la luce della luna quando ti illumina. Vorrei trovare una frase, una lettera, solo per ricordarti quanto sei unica. E dedicare il tuo sorriso alle stelle, poi fermare il tempo e ritrovarci soltanto noi. Come l'ultima volta a passare un inverno, sai. Vorrei che non ti importasse degli altri e vorrei convincerti che l'amore è semplice. Vorrei che il sole fosse ancora più grande, perché forse non basta tutto per regalarlo a te. E ricordarti ancora quanto sei unica. Ho chiuso il tuo sorriso dentro una lettera.